Vuoi dedicare una canzone? Puoi farlo. Manda la dedica, cioè il pensiero che hai cioè nella testa, cioè ti viene, vuoi dedicare a qualcuno una canzone in particolare. Devi scrivere la dedica, il titolo del brano e devi mandare una mail oppure un messaggino. L'indirizzo di posta elettronica è gigi@gigidag.com. Il numero di sms è 3 3 3 6 4 6 7 6 2. L'appuntamento di questa settimana con la mia musica, cioè nel senso dove suono, no? Cioè dove vado, perché io il fine settimana vado in giro e suono, faccio, capito? E questa settimana suonerò in Olanda, tutto a posto. D'Agostino. State attenti. Andiamo lenti, lenti, violenti. Mosca Mata. Artista Spaghetti Trivi. We'll be right back.

Sono Gigi, l'ho già detto, ma la sigla va a sfumare perché devo respirare.